notte. Quanto sei gratis nelle tue scarpe lucide. Quanto sei gratis quando non pensi. Quanto sei gratis quando invece pensi di essere cresciuto, di esserti voluto, di essere andato avanti senza prima aver parlato di me. Senza prima aver parlato con me. Enchanté. Sarebbe cosa gradita a te.